Il Sole 24 Ore. Dal Piemonte alla Sicilia, arresti contro l'ala antagonista del movimento NoTav per l'incidente in Valsusa dello scorso anno. Elogi per Monti all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione. Il nuovo clima politico, dice il presidente Ernesto Lupo, dirà dalle nubi sulle istituzioni. La crisi morde, quasi il 60% dei giovani italiani vorrebbe scappare all'estero per cercare lavoro. Spacciavano durante le partite della nazionale e concerti, 35 arresti a Piacenza, e manette anche la campionessa italiana di natural bodybuilding e 13 rugbisti. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano la cronaca con il blitz scattato all'alba contro i NoTav. In questi minuti a Torino la conferenza stampa. In diretta con noi Maria Chiara Voci. Mentre in Val di Susa da questa mattina sta risalendo la tensione NoTav e si annunciano manifestazioni da questo pomeriggio, si è conclusa a Torino la conferenza stampa convocata dal procuratore capo Giancarlo Caselli. Sono 41 i provvedimenti cautelari emanati, 25 gli arresti compiuti dall'alba di questa mattina dagli agenti della Digos in tutta Italia e anche in Francia. I fatti si riferiscono agli scontri fra le forze dell'ordine e i manifestanti del 27 giugno e del 3 luglio a Chiomonte, giornate che si erano concluse con oltre 200 agenti feriti. Come ha precisato il procuratore Caselli, sono coinvolti anche 3 minorenni, ma solo 3 tra le 41 persone toccate dai provvedimenti sono originarie della Valsusa. Ma sentiamo che cosa ci ha detto il procuratore capo. Non si può assolutamente vedere in questa operazione qualcosa contro la Val di Susa, niente contro il movimento NoTav, niente contro la manifestazione del dissenso, la mobilitazione che rimanga nei confini del rispetto della legge. Tutto ciò è provato, mi sembra, anche dal fatto che 41 sono le persone coinvolte nell'operazione e queste soltanto 3 sono della Valle di Susa. Tutte le altre persone, tutti gli altri soggetti non sono della Valle di Susa. Grazie a Maria Chiara Voci. Sentiamo invece Alberto Perino, uno dei leader del movimento NoTav, al microfono di Katia Caramelli. Una operazione mediatica, perché noi stavamo aspettando il blitz di stamattina da prima di Natale. La cosa è stata attesa fino a oggi per il motivo semplicissimo che dovevano dare una delegittimazione al movimento NoTav, facendo risultare che noi siamo inquinati da tutta l'area antagonista di tutta Italia. Infatti hanno arrestato 2 persone della Valle di Susa e tutto il resto dal resto d'Italia. Dovevano dare un segnale chiaro e forte a tutti quelli che in questo momento si stanno arrabbiando con Monti e non stanno accettando la cura di Monti. Un blitz esemplare per dire alla gente: state calmi, state tranquilli, perché la fine è questa. Ora che pensate di fare? Stiamo ancora decidendo. A Roma l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte di Cassazione. Arrivano elogi al governo Monti. In diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Le tradizionali luci ed ombre del sistema giudiziario del nostro paese, in relazione del primo presidente della Cassazione Ernesto Lupo, il grande arretrato rappresentato dalla giustizia civile, i tempi sempre più lunghi per i 3 gradi di giudizio, 9 milioni di cause pendenti. Nonostante questo, ricorda con orgoglio Lupo, i magistrati italiani hanno la più alta produttività europea. Quindi 2 note positive per il presidente della Cassazione: lo stop agli attacchi al ruolo della giustizia e il mutato clima politico. Ascoltiamo allora questo passaggio. Il mutamento dell'atmosfera politica, istituzionale e culturale, che dirada le nubi che si erano addensate sul nostro impianto costituzionale, e ci fa ben sperare sul mantenimento del quadro istituzionale fondato sui valori e principi fondamentali affermati nella nostra Costituzione. Prescrizione troppo breve, scarse risorse economiche, uffici giudiziari troppo frammentati, altre negatività del sistema giudiziario, per non parlare del pianeta carcere, spiega ancora il primo presidente di Cassazione. Tema questo ripreso anche dal ministro della giustizia Severino, che auspica cautela nell'uso della carcerazione preventiva. Sentiamo. La realtà del carcere ci segnala che oltre 28.000 persone risultano detenute in attesa di giudizio e sono il 42% del totale. Si tratta peraltro in netta prevalenza di reclusi in attesa di primo giudizio, che non hanno ancora subito l'affievolimento della presunzione di innocenza che consegue alla condanna pronunciata all'esito del giudizio di primo grado. I detenuti rimessi in libertà senza che sia stata pronunciata almeno una decisione di primo grado nel 2010 sono oltre 18.000 e nel 2011 superano le 15.000 unità. Corruzione, evasione fiscale, riciclaggio e reimpiego nel libero mercato dei proventi della criminalità organizzata destabilizzano la leale concorrenza tra le imprese ed impoveriscono il paese, dice ancora il ministro della giustizia. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Alla Camera le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia che il governo ha posto sul decreto legge mille proroghe, in diretta Elisabetta Fiorito. Sì, Piera, tra poco qui il voto di fiducia alla Camera sul mille proroghe dopo la richiesta di ieri sera da parte del governo sul testo licenziato in commissione. L'Italia dei Valori continua l'opposizione e voterà no insieme alla Lega. Sono in corso le dichiarazioni di voto, poi il voto di fiducia, chiama nominale, il risultato atteso per le 15. Il voto sul decreto, che alla Camera è disgiunto, ci sarà invece martedì. Il provvedimento contiene tra le altre cose lo stop al condono sui manifesti abusivi dei partiti, l'aumento delle sigarette per coprire la norma sulle pensioni, misure a favore degli esuli italiani dalla Libia, proposta del PDL sul quale ieri il governo è stato battuto in commissione. Nel mirino però soprattutto la norma sulle pensioni dei lavoratori che hanno preso lo scivolo, i cosiddetti esodati, che hanno cioè lasciato l'azienda in crisi per anticipare la pensione. La platea a cui si restringe: potranno andare in pensione con il vecchio sistema solo quelli che si sono accordati con l'azienda entro il 31 dicembre 2011, gli altri andranno con le nuove regole. Non ci sarà poi l'aumento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a te studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E i governatori discutono il nuovo patto per la salute. In arrivo potrebbero esserci nuovi ticket. Ticket sanitari rimodulati in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare, innalzamento dell'età per l'esenzione da 65 a 70 anni e poi riduzione del tetto dei 36.000 euro di reddito sotto il quale non vanno pagati e abolizione del super ticket da 10 euro su visite e analisi. Sono alcune delle proposte che potrebbero entrare a far parte del nuovo patto per la salute all'esame della conferenza delle regioni, misure con le quali far quadrare i conti della sanità regionale, che i governatori dovranno poi portare entro aprile al confronto col governo. Altre novità allo studio sono la cancellazione del contributo sui ricoveri ospedalieri e l'introduzione di nuovi balzelli sulle cure termali. I governatori sarebbero poi d'accordo anche con l'idea di una tassa sul junk food, il cibo spazzatura, proposta dal ministro Balduzzi per finanziare ASL e ospedali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le retribuzioni contrattuali orarie del 2011 sono aumentate dell'1,8% rispetto al 2010. Lo comunica l'Istat, sottolineando che si tratta della crescita media annua più bassa dal 99. Nel 2011 la forbice fra l'aumento delle retribuzioni contrattuali orarie e l'inflazione ha raggiunto inoltre un divario pari a un punto percentuale, il più alto dal 95. La crisi dunque si fa sentire anche nella fotografia dell'Eurispes. Vogliono andare all'estero per trovare un lavoro e questa è l'unica motivazione che muove, secondo i dati Eurispes, più della metà, quasi il 60% dei giovani italiani tra i 18 e i 24 anni che si dice disposta oggi ad intraprendere un progetto di vita all'estero. Il dato scende al di sotto del 50% tra i 35 e i 45 anni. Abbandonerebbero con scioltezza la nave dunque i giovani, ma sono invece meno propensi a spendersi in prima persona per le sorti collettive della nazione. Anche questo è un tratto diffuso tra gli italiani. La maggioranza del campione, 59,6%, si è infatti detto poco o per niente, 16,7%, stimolato ad impegnarsi per la ripresa del paese. Per capire chi è davvero molto intenzionato a spendersi in prima persona per migliorare le sorti dell'Italia, bisogna andare a scavare in un laconico 8%. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di giovani ha parlato questa mattina il Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy nella lettera con cui invita i leader europei al summit di lunedì. L'Unione Europea, scrive, deve ora concentrarsi sulla disoccupazione giovanile, sul mercato unico e sulle imprese. Ed ora a Davos, stamattina tutta la scena è stata per il premier britannico David Cameron. In diretta il collega del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi, buongiorno Ugo. Buongiorno. Allora, partiamo da Cameron. Raccontaci cosa ha detto. Beh, Cameron è stato, come dire, di un'altra dimensione globale rispetto alla Merkel. Cameron ha fatto un discorso, come dire, molto muscoloso. Ovviamente ha detto quello che doveva dire sulla Tobin Tax, non ha citato la Tobin Tax, ma ha fatto capire che, citando un po' di costi che sarebbero non solo per la Gran Bretagna ma per l'intera Europa, applicare una Tobin Tax. E poi però poi si è allineato all'Europa, all'Occidente, al resto del mondo nell'assedio ad Angela Merkel sulla necessità di fare qualcosa di più. Anche lui ha ricordato, come tutti quanti, che la questione dell'Europa non è solamente una questione di disciplina fiscale, ma anche di investimenti, di disciplina del trade, di stimoli. Naturalmente si è preso molti più applausi di quanti non ha presi Angela Merkel ieri. È stato molto più internazionale, molto più convincente, indipendentemente da quello che è. Qua il World Economic Forum continua il suo dibattito interno, la sua grande lacerazione su che cosa succederà. La Grecia si dà per perduta, si è convinti che per la Grecia, per il bene della Grecia e dell'Europa, convenga che la Grecia esca dal sistema euro. Tutti sono convinti che l'euro resterà, non rischia ancora nulla, tutti sono convinti che per il 2012 non si parla di crescita, ma anzi c'è molto pessimismo, ovviamente ci saranno ulteriori cadute prima di risalire, e che alla lunga invece le cose si sistemeranno. Ma il problema grande, e qui nessuno sa dare una risposta, è quale governance, quale riforme politiche l'Europa saprà darsi necessarie, certo, per far crescere appunto anche l'economia e l'euro. Grazie al nostro collega del Sole 24 Ore da Davos, Ugo Tramballi, che continuerà a raccontarci nell'arco dei GR24 e anche a Focus Economia il World Economic Forum. E noi andiamo invece in Francia, in manette Jean-Claude Mas, fondatore della società francese di protesi mammarie PIP, ritenute dannose, lo ricorderete, per la salute. L'uomo al centro dello scandalo sanitario che sta scuotendo il mondo, Jean-Claude Mas, è stato messo agli arresti a Var, nel sud della Francia, in seguito all'inchiesta partita nel dicembre scorso dalla procura di Marsiglia. Lo hanno trovato nella villa della sua compagna, fermato e interrogato. Mas è il fondatore dell'azienda, in fallimento dal 2010, accusata di aver prodotto migliaia di protesi mammarie PIP con un gel non corrispondente agli standard richiesti, 10 volte meno cari del materiale a norma, ma con un'elevata probabilità di rompersi, di infiammare i tessuti e di provocare un tumore al seno. In tutto il mondo sarebbero circa 400-500.000 le donne con protesi PIP, di cui almeno 30.000 in Francia e 4.300 in Italia. Jean-Claude Mas ha ammesso di aver fabbricato il gel di silicone non omologato, respinge però ogni ipotesi di pericoli per la salute. In Francia sono esplose polemiche nei mesi scorsi per 20 casi di cancro, di cui 16 al seno, denunciati da altrettante portatrici di protesi PIP, ma finora non è stato accertato alcun legame di causa-effetto. Adriana Fracchia, Radio 24 e Sole 24 Ore. In tutta Italia arresti contro l'ala antagonista del movimento Notav per gli incidenti in Val Susa dello scorso anno. Elogi per Monti all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione. Nuovo clima politico, dice il presidente Ernesto Lupo, dirada le nubi sulle istituzioni. La crisi morde, quasi il 60% dei giovani italiani vorrebbe scappare all'estero per cercare lavoro. E ripartiamo da una vicenda di cronaca che ha coinvolto questa mattina alcuni rugbisti e non solo. Spaccio di cocaina durante gli incontri e addirittura gli allenamenti di rugby, durante partite di calcio e concerti di star della musica, così come in palestre e locali frequentati da giovani. Il giro è stato scoperto dai carabinieri di Piacenza, che hanno arrestato in tutto 35 persone, di cui 19 nella giornata di ieri, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, una decina di chilogrammi di droga sequestrati. Personaggi cardine della vicenda, secondo gli investigatori, sono Nereo Filippo Maserati, giocatore del Piacenza Rugby, e la sua compagna Maria Chiara Borella, campionessa italiana e vice campionessa europea di bodybuilding. Oltre a Maserati, i provvedimenti hanno riguardato suoi compagni di squadra e altri rugbisti di società minori delle province di Parma e Piacenza, ma ci sono anche arrestati al di fuori di questo giro. Alcuni di questi soggetti svolgevano anche l'attività di buttafuori in diversi locali o di addetti alla security in occasione di concerti. Le indagini si sono dunque estese dall'ambiente sportivo alle platee di appassionati di big della musica pop e rock, big che ovviamente erano ignari di tutto. Gli appuntamenti venivano presi anche online per eventi che si svolgevano non solo in loco, ma anche in altre città del centro e del nord Italia. Giacomo Bagnasco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Equitalia colpisce anche Luca Laurenti, pignorati 6 appartamenti. A Viareggio l'hanno buttata in ridere e alla temutissima Equitalia hanno dedicato un carro di carnevale che neanche a dirlo avrà le sembianze di Dracula. C'è poco da ridere invece per il comico Luca Laurenti, spalla in TV di Bonolis, che rischia di veder messi all'asta 6 appartamenti che l'attore possiede in zona Corso Buenos Aires a Milano per un valore totale di 5 milioni di euro. Il pignoramento lo ha disposto l'Agenzia delle Entrate, che contesta a Laurenti il mancato pagamento di imposte IRAP per 2 milioni di euro tra gli anni 2000 e 2005. In realtà si tratta di tasse dichiarate e non versate per un contenzioso avviato con la moglie. I legali dell'attore hanno sostenuto che l'imposta non riguarda i comici perché non dispongono di un'organizzazione professionale come quelle che, per esempio, reggono studi di avvocati commercialisti. Ma la tesi è stata bocciata in primo grado. Ora si attende l'appello. Se la sentenza dovesse diventare definitiva, gli appartamenti potrebbero essere messi all'asta. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono gravi ma stabili le condizioni di Alessandra Galdabini, la manager scippata ieri sera a Milano mentre era in bicicletta. La donna, 54 anni, è caduta a terra ferendosi gravemente, finendo in coma. Stava rientrando a casa dal suo ufficio vicino alla stazione centrale. La bicicletta per terra, il cestino, il segno della caduta. Non è il primo scippo a Milano e non scopriamo certo adesso gli agguati della violenza urbana. Ma questo, forse perché è in centro, perché è fatto a una donna in bicicletta, perché è così gratuito e davanti a tutti, fa ancora più male. Sembra l'accanimento di una città ostile che non ti permette neppure di tornare dal lavoro in bicicletta e che dà ragione a chi non vuol sentir parlare di mezzi pubblici, di chiusura del centro, di città a misura di persona e preferisce star chiuso nel suo guscio, nel compartimento stagno della sua auto, dove nessuno vede una borsetta. Discorsi assurdi, perfino ingenui, perché anche in macchina si muore. Però è una goccia di cattiveria in più che aggiunge cattivo sangue a una città che sempre più spesso fa buon viso a cattiva sorte. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora un aggiornamento sulla protesta dei tir che continua a creare disagi e dall'Europa arriva una bacchettata all'Italia. L'Europa ci richiama all'ordine e, ironia della sorte, il richiamo arriva dall'italiano commissario ai trasporti, Tajani. Per il momento il tutto si è risolto con una telefonata al ministro dell'interno Cancellieri, ma fanno sapere fonti della commissione l'Italia rischia di incorrere in una procedura di infrazione. Le perdite subite dagli agricoltori ammontano a 50 milioni al giorno, denuncia Coldiretti. Gli stabilimenti Fiat restano fermi anche oggi per il mancato arrivo di componenti. Nei fatti la situazione sta tornando alla normalità in Piemonte, mentre restano ancora blocchi in Toscana. Ma è nel sud che si registrano i disagi più forti. La situazione più critica in Calabria, al quarto giorno di mobilitazione. Benzina introvabile in tutta la regione. In Sicilia, invece, dopo l'incontro tra Monti e Lombardo, i leader del movimento hanno deciso di sciogliere i presidi, ma si mobiliteranno ancora a febbraio perché, dicono, di fatti non ne hanno visti. Giuseppe Richichi, numero uno di AIAS. E quali sono, mi scusi, l'autostrada? Andare a mettere in mano a dei privati 170 milioni di euro che arriveranno fra 2 anni, perché ancora dobbiamo incassare il 2009 come sconto sulle autostrade. Ma che serve? Noi vogliamo che quando andiamo a pagare l'autostrada quel benedetto sconto ce lo diano subito. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Proteste legittime ma modi sbagliati, questa l'opinione del leader della CGIL Susanna Camusso riguardo proprio allo sciopero dei camionisti che ha bloccato il paese. Si fa fatica a capire perché si possano utilizzare delle forme di lotta che stanno determinando l'innalzamento dei prezzi e quindi un danno per tutti, ha detto la Camusso. Bisognerebbe con serenità ragionare sul fatto che è giusta e legittima la protesta, ma le forme e i modi devono sempre guardare all'esistenza collettiva del paese. Gli agricoltori della Coldiretti hanno lasciato le campagne per portare frutta e verdura in venduta, proprio causa sciopero dei tir, sul Canal Grande a Venezia. Jacopo Giraldo è uno di loro, raggiunto al telefono da Valeria De Rosa. Questa nostra manifestazione è volta a dare un segnale molto importante, perché abbiamo deciso che piuttosto di vedere i rincari dei prezzi in giro per il territorio, abbiamo deciso di regalarla ai veneziani e quindi a tutte quelle persone, le persone anziane, le fasce più deboli, perché non è possibile che qualsiasi momento e qualsiasi momento di crisi ci sia sempre qualcuno che debba specularsi sopra, quindi alla fine ci pagano sempre le parti più deboli. C'è tanta folla? Dove ci siamo fermati prima a Tre Ponti, sì, adesso siamo in barca, stiamo camminando, per cui stiamo viaggiando, e adesso dove ci fermeremo ne troveremo altrettante, insomma abbiamo distribuito almeno una cinquantina di borsette piene di frutta e verdura. Stiamo facendo capire a quelli che sono i consumatori che questi prodotti li possono trovare tutti i giorni, lo possono trovare nelle nostre aziende, lo possono trovare nei nostri mercati. Lei è un imprenditore, quale danno le è stato arrecato dagli scioperi di questi giorni? I danni sono ingenti, il problema grande è che, ripeto, che al di là di quello che può essere il danno delle nostre aziende, il danno più grande è un danno sicuramente quello che arriva oramai alle famiglie che sono stremate. Revocato lo sciopero di domani degli assistenti di volo Alitalia, lo fanno sapere i sindacati che nella notte hanno raggiunto un accordo con l'azienda sulle problematiche del personale di cabina. I soccorritori stanno lavorando dalla notte fra le macerie dei tre edifici crollati nel centro storico di Rio de Janeiro. Poco fa hanno estratto il primo corpo. Secondo la Protezione Civile ci sono altre 6 persone ferite e una ventina di dispersi. Andiamo ora sull'isola del Giglio. Buone notizie arrivano sul fronte ambientale perché secondo l'ARPAT, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, non ci sono problemi con detersivi e solventi usciti dalla nave. Intanto sul fronte dell'accertamento delle cause del disastro, oggi al Senato, nell'audizione è stata la volta del comandante delle Capitanerie di Porto, che ha puntato il dito sui ritardi. Quell'ora e 15, tra la collisione con gli scogli e l'ordine di evacuazione. Nella notte della Concordia si ritorna alla fine sempre lì, a quei 75 minuti di buco, perché se il comandante non avesse fatto perdere quell'ora preziosa non ci sarebbero state vittime, anzi sarebbe andata di lusso, per dirla con l'ammiraglio Marco Brusco, comandante generale delle Capitanerie di Porto, nell'audizione al Senato. Relativamente all'evento occorso alla costa Concordia, pare ormai abbastanza pacifico che il bordo abbia atteso del tempo prima di dare l'allarme e comunicare quanto accaduto alla Capitaneria di Porto e a tutti i passeggeri presenti a bordo. Perché quel ritardo? Se anche per le Capitanerie non ci sono dubbi che all'origine del disastro ci sia una responsabilità del comandante nella rotta, sono però i tempi lunghi nell'evacuazione ad aver trasformato la nave in una trappola per tanti. Colpa solo di Schettino o anche della compagnia? Su questo avanza l'inchiesta, ma al momento gli indagati restano solo il comandante e il suo vice, fa sapere il procuratore, arrivato sull'isola per un sopralluogo. Isola che tira un sospiro di sollievo ascoltando che l'uscita dei detersivi che tanta preoccupazione aveva sollevato è stato un episodio circoscritto. Nessun problema, rassicurano gli esperti. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Ed ora parliamo di scuola. Due le notizie. Abbiamo parlato molto qui su Radio 24 della sperimentazione fatta partire dall'ex ministro della pubblica istruzione Gelmini sulla valutazione degli insegnanti, in base alla quale dare incentivi economici ai prof più motivati. Ebbene, quella sperimentazione è morta purtroppo. In compenso viene inserita una nuova sperimentazione, quella della valutazione dei presidi, così da aumentare gli stipendi ai più bravi. Ci spiega tutto Massimo Di Menna della Will Scuola. Partiamo dalla notizia del blocco. Quella degli insegnanti è stata sostanzialmente sospesa per fare degli approfondimenti e poi decidere eventualmente se riprenderla e con quale modalità. Cosa non ha funzionato? Ma forse è un problema proprio questo: noi non abbiamo avuto un riscontro del Ministero sugli esiti di questa sperimentazione. Poi c'era questo inizio all'anno scolastico già avviato, un po' di ritardi. È anche un problema di fondi? Ma anche questo, c'era molta confusione, perché i soldi non si capiva se c'erano quelli dell'anno scorso, poi non essere utilizzati gli altri. Si voglia fare un po' prima e meglio, sicuramente, però il principio di sperimentare un modello valutativo sulla base dell'impegno professionale degli insegnanti e non una valutazione legata al dirigente che decide o alla produzione solamente cartacea e burocratica dei titoli che si hanno, cose a cui le scuole sono troppo abituate, è una cosa che a mio parere potrà essere utile per quando dovremo definire, perché ci vorranno i soldi per una platea così alta, quali sono 700.000 oltre insegnanti, un modello valido per tutte le scuole italiane. Quindi un'occasione persa per il momento, o sospesa? Sospesa. Un po' troppo, diciamo, non particolarmente attento. In effetti però subentra un'altra sperimentazione, quella per poter consentire un aumento di stipendio sui presidi. Sì, questo è un fatto a mio parere positivo, nel senso che continua la sperimentazione per valutare le attività delle scuole in ragione dei risultati degli alunni, che è poi la vera centralità della scuola, il resto sono procedure e carte che dovrebbero essere ancor più eliminate, e si introduce che una parte delle attribuzioni dei dirigenti scolastici, dei presidi appunto, verrà determinata in base ai risultati di apprendimento dei ragazzi. C'è da dire che il contratto ai dirigenti già prevede questo tipo di retribuzione, ma fino ad ora era stata legata semplicemente alla complessità della scuola, alla grandezza, senza alcun riferimento ai risultati. Un saluto da Maria Piera Ceci, prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.